parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. A dargli una degna sepoltura al gatto, quel gatto che è in testa, che si è lontano un chilometro, che è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma si è lontano un chilometro, che è un gatto che non è, sono sotto i capelli. Iniziamo questa sera da Padova, la città di Parenzo, perché c'è una cosa che voglio, sì, che voglio subito raccontare, subito, immediatamente. Ma non riguarda, sì, riguarda anche il sindaco Bitonci. La cosa è questa: il sindaco Bitonci, con l'approvazione incredibile di Parenzo, nei mesi scorsi ha fatto una delibera per punire la prostituzione. Allora, su 206 sanzioni, solo due prostitute hanno versato i 500 euro della multa. Io vorrei conoscere le prostitute che hanno pagato 500 euro di multa a Bitonci. Evidentemente sono prostitute particolarmente ricche. E un solo cliente, perché hanno fatto multe anche a 9 clienti, come vorrebbe Parenzo. Per fortuna. No, fermo, i clienti. Fermo. Sì, non sì, certo. Tu dici di sanzionare i clienti, certo. Solo i clienti, allora, le prostitute sono sfruttate, benedetta, quelle vanno aperte i casini. Benedetta quella prostituta, benedetta quella puttana, benedetta quella zoccola, come direbbe Pannella. Benedetta quella puttana che ha fatto ricorso al TAR, perché giustamente dice: io sono una ditta, sono come un'azienda, e dunque dovete subito togliere quei divieti, dovete subito togliermi via la multa. Su un'azienda. Un'azienda. Le aziende sono assolutamente altre, no, è anche quella. La Confindustria, se la prostituta è un'azienda, ma certo, un'azienda. Ma la prostituzione è un'azienda, dovrebbe essere trattata come un'azienda individuale, una e che fa la zona. Come no, che cos'è? Che vuoi che sia il know-how? Scusa, no, il corpo, no, le tette, la patata. Ha detto che la signorina si reputa. E addirittura fa, per fare ricorso, si appella alla Costituzione che deve tutelare la libera impresa. Ma è straordinaria questa cosa qua. Ma quindi è giusta l'apertura, effettivamente pensavo è giusta questa apertura, perché ma è giustissima, no, è giustissima. Ma io pensavo fosse la per tutelare tua. La libera giusto. Impresa, per tutelare la libera impresa, tutti dobbiamo dare sostegno a questo ricorso di una prostituta, sì, padovana, che in nome della libertà d'impresa, del principio sancito addirittura dalla Costituzione, certo, fa appello al TAR contro l'ordinanza bigotta di Bitonci. Tutto ciò che va contro Bitonci va bene. Ma se tu sei a favore di punire i clienti, scusa. No, ho detto già in un'altra occasione, nell'altro consesso. Io direi, Pannella direbbe prostituzione libera in libero stato. Esatto, sì. Allora, scontro pazzesco tra Salvini e Gian Antonio Stella, credo in una delle innumerevoli trasmissioni dove c'è non solo Salvini, ma insomma tantissimi politici. Eccolo qui. Vai. L'uso delle parole è importante. Sono gli italiani cattivi. Vabbè. Dolores Valandro, che mi risulta essere una leghista, su un sito leghista, Padani si nasce. Contro questi non basta nemmeno il Napal. Cristina Di Pietropaolo, definire animali è un'offesa agli animali. Daniele Rodolfi, bisogna riempire centinaia di treni in queste merde e farli partire per Auschwitz e Mauthausen. No, ma mi scusi, però lei, mi permetta, lei ha dei problemi. Se lei naviga su Facebook ogni giorno trova delle cazzate enormi. Adesso lei ruba tempo alla trasmissione e a me per andare a trovare dei commenti idioti su Facebook. Allora, ma il personaggio del giorno, popolo della radio, è un altro, Il personaggio del giorno è un altro. È un senatore del nuovo centrodestra, nonché presidente della commissione bilancio del Senato, se non sbaglio. Il signor Azzolini. Che noi già, no, con due L, che noi già abbiamo conosciuto una volta, abbiamo fatto una battaglia epica Azzolini qui alla radio. Come Gilletti, esatto. Il quale Azzolini è coinvolto in un'inchiesta, c'è un mandato di arresto addirittura, un'inchiesta che riguarda il crack di un istituto di suore, ma non è, sono state arrestate anche delle suore, peraltro. No. Ma sì, due. Ma il problema ma non si possono arrestare le suore. Ma no, credo che, non so se sono già all'ingattabuio o c'è la richiesta d'arresto. Ma non si può, le suorine. Comunque, attenzione, la cosa è questa. Questo Azzolini pare aver pronunciato, secondo testimoni, la roba è nelle carte, questa frase, senti da Parezzo, riferita a Suor Marcella. Suor Marcella. Qui adesso comando io, altrimenti vi piscio in bocca. Beh, amico mio Azzolini, comunque è una frase da numero uno, su questo non c'è dubbio, da uno con le palle. Il signor Azzolini, noi lo abbiamo chiamato e glielo abbiamo chiesto. Pronto. Il presidente Azzolini? Chi è? Buonasera, qui Radio 24. Sì. Salve. Volevo fare una sola domanda. Quella frase no, lì. Guardi, non commento i procedimenti al mio. No, è riportata. No, solo. Lo so, lei ha ragione. Allora basta. No, però siccome c'è una frase su quella alle suore, vi piscio in bocca. Vi piscio in bocca alle suore, vera o no? No, non ho letto. Io non mi ricordo mai di aver detto frasi di questo tipo. Lei non ha mai pronunciato frasi così? Ma ci mancherebbe altro. Però siccome ci sono dei testimoni ma comunque, guardi, non so che cosa c'è e non commento, per favore. Ma la richiesta di arresto la spaventa? Quello che voi leggete, ma io non commento. No, però siccome vi piscio in bocca alle suore, però, lei è un cattolico, no? Cosa è da ore che in continuazione cercate di dirmi di commentare i procedimenti. No, ma non i procedimenti, le frasi. Non lo faccio, punto. Non commento. Non commento i procedimenti a mio carico. Scusi, Azzolini, però. No, io rispetto. Come io rispetto la vostra. Sì. Sì, ma io non. Il mio, la mia posizione di non commentare. Ma lei capisce che da cattolico qual è lei, immagino? Aver detto ad una sola. Non commento i procedimenti a mio carico. Punto. Quello che ha detto. Non commento i procedimenti a mio carico. Punto. Va bene. Grazie, arrivederla. Arrivederci, grazie. Io francamente questa cosa non la capisco molto. Cioè, uno commenta a quello che gli pare. Per carità, c'è la libertà di commentare e di non commentare. Però altre volte i politici vengono a parlare, a fare i loro comizi, a dire le loro cose, no? A spiegare come va il mondo, come dovrebbe andare l'Italia, come dovrebbero andare le aziende, eccetera. Quando c'è una notizia, come dire, un po' delicata, che riguarda una frase gravissima pronunciata ad alcune suore, vera, non vera, un'inchiesta in corso, un mandato di arresto, improvvisamente non commento i procedimenti a mio carico. Certo. Ma dai, su. Ma cosa vuoi che dica? Se vabbè, è vero... ma ho capito, amico mio. Comunque, questa roba qui, siccome questo qua è senatore dell'ANCD e Renzi potrebbe avere un guaio al Senato, fa parte di una di quelle di quelle storie da inserire nella rubrica se ci fosse stato Berlusconi, perché questo qua è un membro del governo alleato del Partito Democratico, avrebbe pronunciato questa frase a una suora: qui comando io, altrimenti vi piscio in bocca. Lasciamo perdere le cose più serie che riguardano la richiesta d'arresto, il crack di questo istituto. Se ci fosse stato il governo Berlusconi, io credo che tutto il mondo della politica, dei giornali di sinistra o meno, a parte alcuni, avrebbero chiesto le dimissioni immediate non solo di questo signore, ma anche del governo, dei sottogoverni, dell'universo mondo. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Comunque ragazzi, il vi piscio in bocca di Azzolini è smentito, come avete sentito pochi minuti fa, la Zanzara, dallo stesso senatore del nuovo centrodestra, ma ci sono testimoni eccetera. Poi è chiaro che non è che abbiamo la frase audio, chiunque avrebbe smentito. Bisognerebbe chiamarlo NVC, cioè? Se fosse vero. Cioè? NVC. Cioè sarebbe ANVC. Dici nuovo VC dovrebbe essere, se fosse vera. Però mi ricorda questa, più che nuovo VC, mi ricorda la frase che disse Sgarbi a noi, che però non era di piscio. Mi è venuta in mente subito anche a me quando me l'hai. Cioè non era di piscio in bocca in realtà, in ma testa, era di piscio in testa, cioè in forse testa, leggermente più elegante. Più, beh, cioè certo, tra il cattolico Azzollini, sì, tra il cattolico, sì, Azzollini, sì, che alla suora, sì, dice vi piscio in bocca, qui comando, sì, io. Sì, assolutamente. E il non particolarmente cattolico Sgarbi durante Radio Belva, più che disse aulico, vi piscio in testa, almeno lui si è limitato la testa, quello invece vuole pisciare direttamente in bocca. Sì. Comunque risentiamo. Comunque per me invece, scusami, la notizia del giorno è un'altra. Qual è? Qual è? La signora Beccalossi. Sì, vabbè, adesso la Beccalossi no, rinviata a giudizio per... Rinviata a giudizio la Beccalossi, sono felice. Vabbè, poi spiega anche perché però, eh. Poi argomentiamo, no, ma abbiamo tempo fino alle 21.30, no? Cioè, allora, questa qua che è consigliere regionale di Alleanza Nazionale, anzi di Fratelli d'Italia, è stata rinviata a giudizio per aver espresso soddisfazione per la morte di un romeno. Esatto, no? Su Facebook. Quindi vuol dire il peso delle parole e che le istituzioni e i politici, sì, non sono, non vivono in un altro contesto. Hai detto una stupidaggine, finisce il processo. Vabbè, ma è rinviata a giudizio, tranquillo, tranquillo, vabbè, calma, vabbè, calma. Sgarbi, intanto... Sgarbi, ma ti piscio in testa. Allora, abbiamo accertato la guarigione di Gianluca Buonanno. Eccoci qua, che è in diretta dal Parlamento Europeo. Gianluca? Sì. Mi senti? Ciao. Tutto, sì, sì, tutto bene? Tutto bene? Sto uscendo dall'aula, sì. No, diciamo tutto bene no, però rispetto a ieri meglio. Ma io quindi non ho cap- tutte le maledizioni che mi arrivano. Ma chi ti manda queste maledizioni? Non ho capito. La colpa di chi è, secondo te, di questo malore che hai avuto, che non è stato uno svenimento? Ieri l'abbiamo documentato anche con toni drammatici. Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega. Sono andato per terra, però. Sei andato per terra, c'è uno svenimento vero e proprio, allora. Non ho perso i sensi, però sono andato per terra. Ma io non ho capito, ma Schulz c'entra qualcosa o no? Beh, sarà una combinazione, ma nelle ultime tre settimane mi ha convocato tre volte, manco fossi criminale peggiore d'Europa, dicendomi chiaramente proprio ieri che io sono un problema per il Parlamento Europeo. E questo è vero. Lui è stufo di questi, di questa mia politica che faccio e qui al Parlamento giusto. Europeo. E cioè ti perseguita, una sorta, una specie di persecuzione. Guarda, io adesso sto guardando con i legali perché secondo me sta facendo dei legali, perché secondo me sta facendo del mobbing. Cioè questa persona, invece di pensare ai problemi dell'Europa, ai clandestini, al lavoro e al resto... Cioè si occupa di Buonanno, dici? Si occupa del comportamento... Si occupa di Buonanno, perché se Schulz... Si occupa di quello che succede nel Parlamento. No, si occupa di Buonanno. No, però la notizia è questa. In tre settimane. La notizia è questa. Ha fatto il suo lavoro, ha fatto. La notizia è questa. La notizia è questa. Allora, stai pensando addirittura a denunciare Schulz per mobbing. Mamma mia. Vabbè, che c'è? Non ho capito. Sto pensando perché nei colloqui che io ho con lui, sì, perché lui mi chiama, poi ci sono tutti interpreti, certo, gente che scrive, le lettere che mi manda. Ma non è che fai quello che vuoi, che è casa tua quella lì. Quindi, di conseguenza, mi minaccia dicendo io ti faccio delle persone più forti, sì, tu la devi... Cioè ti ha stressato con questa cosa? Non sono il suo impiegato, non sono il suo impiegato, non sono un commesso, con tutto rispetto. Ti ha un po' stressato con questa roba qui? È uno che continua, praticamente vuole zittirmi, quindi io dalla prossima volta, magari quando ci sarà lui, entrerò col bavaglio, lui mi vuole imbavagliato. Ieri ho fatto una specie di giochino mentre mi parlavo, gli ho detto a questo punto cosa dovrei dare, le dimissioni. Appena ho citato la parola dimissioni ha cambiato atteggiamento, non ha più parlato di sanzioni, mi ha detto vabbè, allora se magari ci fossero queste dimissioni, e io a questo punto mi fermo e vediamo. Cioè diciamo che poi... lui un po' ti persegue, dunque tu stressato ha contribuito al tuo malore. Ma questo dovremmo accertarlo. Certamente il fatto che continua a perseguitare solo il sottoscritto, ci sarà un motivo. Io sono contro le multinazionali, probabilmente lui è a favore. Lui poi mi ha accusato anche dicendomi ieri lei ha mangiato una banana in Parlamento. Ma scusate, io ho mangiato una banana, in realtà ho dato un morso a una banana, perché ho spiegato che la Comunità Europea fa un Ma secondo me sono i Rom che hanno fatto una stregoneria nei tuoi confronti, ti hanno fatto sentire male. Ah, la stregoneria può essere i Rom, può essere la Chieng, che ogni volta che parlo scrive su Facebook di me, oppure cioè, dici, sarà Chieng, la Merkel, oppure sarà la Mogherini. Cioè la Chieng ti ha fatto una macumba. La Chieng ti ha fatto Non lo so, ma mi auguro di no, però visto quello che potrebbe fatta avere. Da solo, se l'è fatta da solo. Ma scusa, a proposito, Parenzo, ma lo vuoi portare in tribunale per razzismo, hai detto? Vuoi denunciare, cioè hai dato del razzista l'altra volta in una trasmissione, sì, hai dato del razzista sì. Buonanno. Cioè, secondo te Buonanno è un razzista? Diglielo in faccia. Diglielo in faccia. Però senza ombra di dubbio, fino a prova contraria. Cioè, non ho fino ad oggi basta venire nei comuni dove io fino ad oggi, fino ad oggi, magari da domani no, e nessuno può dire che sono razzista, perché io fino faccio oggi sicuro gente anche non italiana e aiuto molta gente non italiana, ho dato la casa a gente non italiana, l'importante è che se lo merita. Cioè, non ho capito, quindi i razzisti secondo te dovrebbero andare in galera, Parenzo? No, non ho capito. No, in galera no, perché in galera io non sta neanche a me, vanno sanzionati, vanno puniti con altre sanzioni pecuniarie, vanno mandati a fare lavori socialmente utili. E dove dovrebbe andare a fare i lavori socialmente utili? Dovrebbe andare, utili? Ad esempio, al CAR di Mineo, dovrebbe andare cioè, in vuoi mandare centri. Buonanno a fare dovrebbe al CAR andare di Mineo. Alla Caritas a servire i pasti ai migranti. Dovrebbe fare cose più utili che quelle, con tutto il rispetto sulla per l'orario. Volevo dire una cosa rispetto a tutte quelle. Ma perché non vai, scusa, Buonanno, ogni giorno dice al Parlamento europeo, Gianluca, perché non vai, perché non vai, scusami, perché non prendi un po' di immigrati adesso che c'è, cioè, lì al tuo paese? No, io ho messo i cartelli in 5 lingue, compreso l'arabo, dicendo che io clandestini non ne voglio, che se mi arrivano i clandestini li che carico fai? Su un furgone e li faccio scaricare davanti alla prefettura. Cioè, io l'ho detto chiaro, non ne no, ho, non ne sono, sono esseri umani, sono esseri umani e si aggiusta chi li vuole, li vogliono se li tengono. Io non sono pacchi di riso. Penso a quelli che sono residenti a Borgosesi e cerco di dare una mano a loro. Borgosesi. Ma non è che ti sei sentito male l'altro giorno? Non è che ti sei... detto... Aspetta un attimo sulla carità. Non ti sei sentito male l'altro giorno perché hanno approvato più o meno una cosa sui matrimoni gay, no? Ma che approva? Ecco, magari. Altra barzelletta. Cioè, qui in Europa invece si parla delle cose serie. Parlano dei gay. Hanno votato matrimoni gay come se fosse il problema numero uno dell'Europa. Adesso io ho fatto un intervento sul Burundi. Burundi, amico mio. Ma che cosa ce ne frega del Burundi? Agli europei interessa qualcosa del Burundi? Dobbiamo fermo che abbiamo dell'Europa. La pubblicità del giornale radio, fermi tutti. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpatici. Fondi, bot, BTP, PAC, obbligazioni, conti di deposito. Prima di investire, meglio essere informati. Giovedì mattina all'interno di Cuore e Denari non perdete Investire Informati. Investire Informati. Il nuovo appuntamento per conoscere i principali strumenti finanziari e orientarsi nel mondo del risparmio e dell'investimento. Investire Informati. Ogni giovedì alle 11:45. Solo su Radio 24. La Zanzara. Curalo Parenzo, insomma curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due, ciao. Allora caro Parenzo, io rimetterei in onda la mitologica telefonata che abbiamo fatto prima al senatore Azzollini, sì, che di NVC. No, non è NVC, NCD, dai, no, lui, nuovo lui. Centrodestra. Lui poi no, dopo. NVC sarebbe anche no VC, invece VC. No, VC, esatto. Allora, la telefonata ad Azzollini, perché Azzollini è un senatore del nuovo centrodestra. Azzollini, il quale avrebbe detto, c'è un mandato di arresto. Avrebbe, bisogna sempre dire avrebbe. Avrebbe detto a una suora. Avrebbe salva tutto, avrebbe. Adesso comando io qui, vi piscio in bocca una povera suora, peraltro due suore sono state arrestate oggi, vabbè, ma questo è un altro discorso. Azzollini, a noi non ce ne fa niente delle indagini, perché ci sono, come dire, no, dei procedimenti in corso, come si dice, è una vicenda molto complessa, il crack di una casa di cura gestita da suore, eccetera eccetera. A noi ci interessa se è vero o no che questo senatore, molto focoso tra l'altro, una volta abbiamo avuto una battaglia pazzesca qui alla Zanzara, abbia pronunciato certe frasi, cioè a una suora, ad alcune suore, qui comando io, vi piscio in bocca. Pronto? Il presidente Azzollini? Chi è? Buonasera, qui Radio 24. Sì. Salve, volevo fare una sola domanda. Quella frase lì. Guardi, non commento i procedimenti a mio No, caso. È riportata. No, solo. Lo so, lei ha ragione. Lei ha ragione. Allora basta, chiudo. No, però, siccome c'è una frase su quella alle suore, vi piscio in bocca. Punto. Vi piscio in bocca alle suore, vero o no? Non ho letto. Io non mi ricordo mai di aver detto frasi di questo tipo. Lei non ha mai pronunciato frasi così? Ma ci mancherebbe altro. Però, siccome ci sono dei testimoni. Ma comunque, guardi. Non so che cosa c'è e non commento, per favore. Ma la richiesta di arresto la spaventa? Quello che voi leggete, ma io non commento. No, però siccome vi piscio in bocca alle suore, lei è un cattolico, no? Cosa è da ore che in continuazione cercate di dirmi di commentare i procedimenti. No, ma non i procedimenti, le frasi. Non lo faccio, punto. Non commento. Non commento i procedimenti a mio caso. Scusi, Azzolini, però no, io rispetto come io rispetto la vostra. Sì. Sì, ma io non la mia posizione di non commentare. Ma lei capisce che da cattolico qual è lei, immagino, aver detto ad una sola santa. Non commento i procedimenti a mio carico. Punto. Quello che ha detto. Non commento i procedimenti a mio carico. Punto. Va bene. Grazie, arrivederla. Arrivederci. Il super cattolico Azzolini avrebbe detto a una suora: comando io o vi piscio in bocca. Ma ti piscio in testa. Questa era Sgarbi a me. Va bene, andiamo a Milano, Marco. Ma hai visto questa notizia pazzesca? Senti, fammi sentire Marco da Milano. Che no, non è... che mi ha sconvolto, incredibile. Qual è la notizia che ti ha sconvolto? Dimmi. Hanno trovato morto in albergo un mio amico. Vabbè, Khaled Fouad Alam, un ex senatore o deputato. Un mese fa. Vabbè, ma chi se ne frega, muore un sacco di gente, detto ma con tutto il rispetto. Se ne frega, va bene. Però. Ma non chi se ne frega della morte, chi se ne frega del fatto che sei rimasto sconvolto, per carità. E vabbè, è morto una persona, un ex senatore, un ex deputato. Va benissimo, per carità. Inchiniamoci tutti, preghiamo. Che ti devo dire? No, ma te lo dico con la. Ma dillo a me in privato, che lo dici in pubblico? In privato te l'avrei detto, l'ho visto adesso. Vabbè, Marco, dai, forza. Marco da Milano, dimmi. Nessuna sensibilità. Ma non è che nessuna sensibilità, ma noi possiamo occuparci di tutte le persone che muoiono, no? Ogni giorno. È curioso. Vabbè, per te ci sono morti più importanti e morti meno importanti. Marco da Milano, vai. Buongiorno Giuseppe, buongiorno dimmi. Parenzo. Sì, essenzialmente vi ritengo anche delle persone intellettualmente pure stimolanti. Alle volte, quando puntualizzate, visto che soprattutto Parenzo prima aveva fatto tutto quel bel discorso in merito alla responsabilità delle parole, alla responsabilità delle frasi, state a fare un casino micidiale perché quello ha detto che avrebbe pisciato di qui e di là su una suora. Insomma, ma è una frase riportata dalla richiesta. Nella richiesta d'arresto verso Azzolini, questo senatore, che avrebbe detto a una suora: qui comando io, altrimenti vi piscio in bocca. Amico, l'ho pronunciata io stavolta sta frase. Un senatore, peraltro molto cattolico da quello che mi risulta, del nuovo centrodestra, del signor Alfano, il quale ha un problema. Cruciani, ascolta, va bene tutto. Ma allora che vuoi? Non ho capito. E a me, perdonami, te lo dico in modo garbato, ma sì. A me cosa me ne frega di questo qua? Se non te ne frega e non ti interessa questa cosa, non ascoltare. Questo, c'è una richiesta di arresto nei confronti di un senatore del nuovo centrodestra. La cosa potrebbe compromettere il governo Renzi, perché già è traballante al Senato. Questo senatore Azzolini, adesso ci sarà questa richiesta di arresto che arriverà al Senato. Tra le altre cose, per una vicenda complessa che riguarda il crack di una casa di cura, tra le altre cose, c'è anche una frase che colpisce moltissimo, naturalmente. Avrebbe detto a una delle suore, quando ha preso il comando della situazione in questa fondazione, avrebbe detto a una suora: qui comando io, altrimenti. Ma che cos'è che ti scandalizza? Non ho capito. Perfetto. No, guarda, mi scandalizza che voi, che ritengo intelligenti, mi ripeto, stiate a fare tanto di quel casino su questa frase, quando tutte le cose che hai detto precedentemente, perché a me che l'abbia detto che si mette a urinare di qui e di là su una suora. Mi dispiace per la suora. Va bene, a lei non interessano questi dettagli. Benissimo, lo capisco. A me interessa che state a fare un casino su una cosa di questo genere quando ma forse quale casino? La cosa ma forse se fosse con quale che la questione è diversa. Non ho capito cos'è che hai detto. Ma qual è il casino? Non ho capito. State a fare continuando a commentare, esaltare, far sì che questo dettaglio. Che se è vero che l'ha pronunciato, amico mio, mi piacciono i dettagli, nella vita mi piacciono i dettagli. No, ma questo è importante, anche perché guarda che non è un dettaglio, fosse vero, non è un dettaglio. Ti dà l'idea, sai di che cosa? Se fosse vero, sai di che cosa ti dà l'idea? di che cos'è quel modo di concepire il potere, per cui qui è un'espressione che, se fosse vera, ti dà perfettamente l'idea, certo, di qual era il rapporto e il tipo di tra potere. Le altre cose, oltre al fatto che è un cattolico rivolto ad una suora, sì, insomma, esatto, questo va bene, questa è l'ipocrisia massima, sarebbe sì, sì, nel caso in cui l'avesse pronunciate, certo. Certo. I politici italiani io li chiamo infami, quei figli di cani tu come li chiami, carabinieri e militari io li chiamo infami, quei figli di cani tu come li chiami. Allora, carabinieri e militari io li chiamo infami. Sai chi pronunciava queste parole? Adesso, per carità, è una canzone, eccetera. Sono parole di una canzone di Fedez del 2010. Pensavo il 99 posto. No, quindi, amico mio, Fedez, come diavolo si chiama? 2010. Ma c'è ancora Buonanno con noi? Io sono qua. Io non so cosa ha fatto Fedez, perché ancora non è chiaro. Ci sono denunce. Devo dirti una cosa prima, però. Dimmi. Ieri andavo al creatore, l'unico contento qui era Schulz. Addirittura, tu dici, se ma ieri crepavi sì, era contento Schulz. Ce ne sarebbero tanti contenti. Ce ne sarebbero è stati gravissimo, tanti contenti, anche Parenzo, forse, non lo so. No, no, io forse no, anche Parenzo. No, Parenzo no. Però no, non Schulz dirlo, perché sai che non è vero. Sicuramente si trova via un problema. Ma neanche su, non dire stupidaggini. Adesso stai bene, sì, sei tornato a rompere i coglioni. Dopodiché, ma sì, la voce che ho, sto male. Ma vabbè, questo mi dispiace, ovviamente. Le cose terribili che dici, di cui secondo me dovresti rispondere in un'aula di tribunale, se non ma in che un'aula... ha detto? Che i Rom sono una feccia dell'umanità? Che ha detto di così terribile? No, facciamo l'elenco delle cose razziste, della società, non dell'umanità. Tutto quello che ha fatto sputtanando un'aula di parlamento, qual è il Parlamento europeo? Fatto politica a modo suo, non per i coglioni. Sputtanato per quello che vuol dire ha fatto politica? È arrivato il soccorso nero verde. Ma che vuol dire ha fatto politica a modo suo? Fa politica a modo suo, perché qual è il problema? Tu vuoi politici tutti quanti uguali? Io non sono mica un leccaculo delle multinazionali del potere che c'è qua dalle banche, io sono l'esatto contrario. Ma cosa vuol dire? Ma io non ho capito se ti colpisce questa cosa di Fedez. Guarda, Fedez, l'avevo già detto una volta, io l'ho conosciuto perché è venuto sì, Cavallo, anche lui, figurati, no? Già questo la tirava come pochi, no? Visto che ha detto che lui è un VIP, sapete che VIP cosa vuol dire? Beh, non si sa se l'ha detto. Perso, sì. Io direi importa un pirla. E quando fa queste cose qua, quando sta sì, dentro la discoteca a far versi, io gli farei l'esame del sangue subito, così vediamo subito se è lui o c'è qualche altro problemino che non dice. Cioè, tu dici bisognerebbe fare l'esame del sangue a Fedez perché potrebbe avere dei problemi di che tipo? Cioè, è drogato? Ma non lo so, se vaneggia, se dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, probabilmente non credo che sia frutto solo del suo cervello, ma ci sia qualche altra cosa. C'è qualche sostanza, dice. Ma potrebbe anche darsi, non mi stupirei. Va bene, ciao Gianluca, ciao. Voglio chiamare l'Avis. Ciao. La Zanzara. Secondo me i vegani hanno un problema col marketing. Sì, perché se tu vuoi attrarre il target Giorgio Montanini, vegano, non è che mi puoi mandare il tuo capo invasato con i cespugli di capelli sporchi, le unghie nere, lo sai io, tipo San Francesco, i sandali a dicembre, mangio cadaveri. No, perché dico, sta a casa, devo 50 centesimi, vai. Volete il target Giorgio Montanini? Mandatemi la più bella gnocca vegana che ci avete. Finita qui. La più bella che ci avete. Mentre sto a fare un morso, un hamburger. Ciao. Scusa, non farlo. Ciao, mi chiamo Veronica Veg. E questa tessera che ho nelle mie mani è una tessera che si chiama card. È ricaricabile. Sì. Tu ogni volta che c'è voglia di mangiare un panino, chiamami. La voglia te la faccio passare io. Allora, da notare che su Nemico Pubblico Rai 3 hanno bippato la parola pompino, cioè perché questa ovviamente virtuale Veronica Veg, che dovrebbe persuadere Montanini a diventare vegano, gli offriva in cambio un'altra cosa. E pronunciava. E c'era questa pompino card. Ora, possibile mai che la parola pompino sia bannata da Rai 3? No, da Rai 3? L'hai ma dico Rai 3. Si è capita, l'hai detto. No, ma lascia perdere quanto l'ho detto. Ma possibile mai che Rai 3 di notte, tra l'altro, Rai 3, non sto parlando di Rai 1. Il servizio pubblico, ma, se... ma la parola pompino, cioè servizio non è pubblico. Ma che vuol dire? Dai, su, ma ne vediamo di tutti i colori anche sul servizio pubblico. Di sconcezze, è normale, no? Di porcherie, di falsità. Vabbè, ma non è questo. Abbiamo nei giorni scorsi parlato di una mitologica ascoltatrice della Zanzara che si chiama Lores Dalzotto, la quale sì, Veneta, Veneta, sì, di Vicenza, la quale ma ve la ricordate? Adesso ve la faccio sentire. Faccio un appello a tutti quei disgraziati che si suicidano. Il mese scorso ne ho conosciuto uno e dopo tre giorni non c'era più. Non fatelo per niente. Se avete deciso prima, fatene fuori due o tre. Un direttore della banca, uno dell'Equitalia, un politico. Ammazzateli e dopo ammazzatevi. Io non mi ammazzerò mai. Ma se succedesse che faccio una visita e ho una scadenza vita, lo giuro sulla cosa più grande che ho, che prima ne ammazzo più che posso. Questura li ammazzo come licenza. Mi capita. Ma scusi Lore, se lei ha armi in casa? Ma avvisa la questura. No. E come non le ammazza? Anche coltelli grandi. Ha dei coltelli grandi. Tutti piccoli. No, non li ha. E come le ammazza le persone che vorrebbe ammazzare? No, ma guardi, il sistema lo trovo. Allora, la cara Lores da Vicenza, che è insomma un personaggio anche adorabile dal suo punto di vista, ma adorabile per te, si è candidata con gli indipendentisti veneti alle elezioni regionali. La signora Lores, quanti voti ha preso questa signora? Credo una settantina di voti. 70 voti, 70 bene, voti. Neanche, vuol dire che neanche i suoi parenti tutti l'hanno votata, questo è rassicurante. Aspetta, vedi aspetta che è chiamiamo, civile. Chiamiamola, dai. Vedi che è civile. Lores? Sì? Hai preso 70 voti. 70! Chi parla? Sono Parenzo, testa di polenta. Dimmi cosa vuoi. No, volevo complimentarmi con te per i 70 voti. Vuol dire che neanche la tua famiglia ti ha votato. 70! No, non 70.000. Non 700. Bensì 70. 70. Va bene così? Beh, va bene così, cioè, no, sono soddisfazioni, eh? Sì, ma sì, se tu sei contento di questo, molto miserabile, molto. Miserabile, stupidino, sì. Vuol dire che hai una vita di merda. Ciao. Sì. Però è vero Parenzo, non ho capito, questa ha preso 70 voti, si è candidata. Hai capito che classe la signora? Ma ho capito, ma hai capito che classe? Ma il Veneto, onesta gente qui. Vabbè, dai. Francesco da Padova, comunque no. Godo per il fatto che il Papa ha detto che Medjugorje, adesso non ha detto così ovviamente, è una enorme cialtronata. Questo godo, devo dire che godo. Ma uno hai come fatto può... una sintesi verosimile, non con queste parole, ma questo. Ma scusa, ma come si può credere ai veggenti di Medjugorje? Ma come cazzo si può credere ma alla veggente? Ma tu hai mai sentito una volta la veggente di Medjugorje? Una dei veggenti? No, ma ti prego, senti una per una volta. No, voglio sentire. Ma diventi islamico. Cioè, se uno sente la veggente di Medjugorje, diventa dell'ISIS. No, ti giuro, diventi dell'ISIS. Dai, su. Poi per carità c'è gente che va a pregare a Medjugorje, tutto quello che vuoi, i Paolo Brosio eccetera eccetera, per carità, va benissimo tutto, la preghiera va sempre bene se uno sono ci crede. Sono fatti un'altra chiesa praticamente. Veggenti di Medjugorje, a un certo punto il Papa dice amici miei basta, cioè i veggenti non è che ci sono dei tramiti, pure quelli là no che dicono di essere un tramite tra la Madonna e i fedeli, no, non esiste questa cosa, anche se uno crede che esista la Madonna. Cioè, no, non è che esiste un tramite tra la Madonna e i fedeli, i veggenti. Ma di che stiamo parlando? Dai, Francesco da Padova, dai. Pronto? Dimmi. Pronto, ciao, buonasera. Intanto volevo dirvi che ha ragione Parenzo, che tutti i veneti non sono come quella signora lì. Io sono veneto. Ma chi ha detto questo? Chi l'ha mai sostenuto? Boh. Cioè, nessuno lo sostiene. Per carità, intanto diciamolo. Vabbè, poi... No, volevo dirti una cosa. Voi continuate a insistere sulla legalizzazione delle case chiuse. Sulla Io sì, ecco, moltissimo. Secondo me è assolutamente sbagliato. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Lo so, però ti spiego perché. Dimmi. Se ti interessa. Allora, certo. È giusto legalizzare le prostitute, è giusto legalizzare la loro attività, ma non le case di prostituzione. Perché quella è la prima fonte di sfruttamento di quelle donne. No, ma è il contrario, guarda. Uno può fare la propria. Io sono per la legalizzazione di questa attività a tutti i livelli. Cioè, uno può fare una cosiddetta ditta individuale, come dice quella prostituta di Padova, esatto, che giustamente ha fatto ricorso a TAR. E può esercitare. E paghi le tasse. E può esercitare a casa sua, esatto, oppure esatto, dove vuole, in un camion o quello che ti pare, rispettando le norme igieniche e tutto quello che vogliamo di ordine pubblico. Oppure ci possono essere delle cooperative di prostitute. Oppure ci può essere un imprenditore che apre un bordello, il quale prende come proprie lavoratrici delle prostitute e le pagherà secondo quello che sono gli accordi. Guarda, io adesso se ci sei stato sui bordelli, ma non ho capito, ragazzi. Austria, Svizzera, Slovenia, c'è un imprenditore che è anche abbastanza importante. Non penso che se tu ma chiediglielo se vuoi qui ma davanti. Cosa? Ma che c'entra adesso l'imprenditore? Non ma ognuno che lui voglia, come dire, dirottare il suo business. Ma cosa vuol dire? Ma tu sei veramente razzista. Qual è il problema se c'è un piccolo imprenditore che vuole fare business con la prostituzione, come avviene in Austria, come avviene in Svizzera, come avviene in altri posti? Ma perché ti deve scandalizzare questo? Qual è il problema? Ma non possiamo considerare la impresa una prostituta? Ma perché adesso? No? Ma perché sei impresa? Un bigotto? Ma è certo che è un'impresa la prostituta, sia impresa singola che impresa collettiva, assolutamente, ma sia cooperativa. È un'altra roba, non dai. È l'impresa, va bene, allora vai a fare in culo, dai. Francesco, dimmi. Non è l'impresa, quella non è. Hai deciso tu cosa hai impreso oppure no? Ma non è un'impresa, non è un'impresa. È una roba, una fabbrica, una cosa. Ma che c'entra? Ci sono imprese, come può essere un'impresa, una piccolissima impresa che produce non so che cosa, tappi, e c'è un'impresa che produce sesso, che produce pompini, che produce trombate, chiaro? Questo è il punto, dai, Francesco, dimmi. Può esistere, la prostituta è giusto che si legalizzi, che vada in ordine e tutto quanto. Pazzesco, però se tu ci sei stato, penso di sì, nei bordelli di Austria, sì, l'ho detto mille volte, dai, su, di Svizzera. Sì, sì, ok. Io ci sono stato come te, guarda, lì sono sfruttate e ti dico di più, le persone che gestiscono queste case sono, non dico mafiosi perché in Austria o in Svizzera non c'è la mafia, ma sono simili delinquenti. Se sono delinquenti ve ne verrebbero arrestati, vivono, ho capito. E vivono sulle non vengono arrestati perché loro fanno un lavoro legale. Allora, appunto, se fanno un lavoro legale, appunto, non è che sono però delinquenti. Vivono che sono sulle delinquenti. Spalle, vivono sulle spalle e sul lavoro. Ma quello non c'è dubbio. Ma scusami, le imprese non vivono sulle spalle dei lavoratori? Cioè, chi fa dei tappi, costruisce dei tappi in un'azienda, quei lavoratori lì sono, sono tra virgolette sfruttati da quell'azienda per fare i profitti. Poi ricevono in cambio uno stipendio. Stessa cosa succede dall'altra parte. Ci sono delle persone che sfruttano il fatto che queste ragazze si concedono a dei clienti, l'azienda ha dei vantaggi e anche loro hanno dei vantaggi, punto. Ma non è, io non capisco veramente la follia. Poi lo sfruttamento è un'altra cosa. Lo sfruttamento Guarda come vengono trattate, vissute, come vivono queste ragazze che vivono nei bordelli. In Austria, in Svizzera vivono male. Ma non lo so se vivono male. Vivono male, che vuol dire vivono poi, male? Vivono, ognuno vive. Vivono sfruttate da questa gente. Va bene, Francesco, grazie. Mario da Roma, sono costrette, non credo. Mario da Roma, vai. Buonasera a tutti. Vai. Una parte del mio intervento l'ha anticipato un ascoltatore precedente. Dimmi. Che lamentava la vostra insistenza sulla notizia della frase detta dall'onorevole sulle suore. Non è un'insistenza, che c'entra l'insistenza? Qui c'è una frase detta un senatore a una suora nell'ambito di un'inchiesta per la quale è stato chiesto l'arresto di questo senatore. A questa suora avrebbe detto: qui comando io, altrimenti vi piscio in bocca. La frase non ti colpisce? Sì, mi colpisce. Non ti colpisce? Colpisce. Beh, se ti colpisce, allora che vuoi? Che lei abbia detto che una persona che pronuncia questa frase ha le palle. Ma no, ma ho detto alle palle, ma non ho detto. Una persona veramente. No, ma intelligente, ma io non ho detto che ha le palle, ho detto uno letteralmente alle palle. Vabbè, ho detto alle palle, benissimo, allora difenderò questa cosa. Ho detto che ha le palle. Dunque, è uno che dimostra la forza del potere, nel senso, non era un elogio, figuriamoci. Ma avere le palle. Ma no, alle palle c'è uno che dimostra l'arroganza del è un imbecille maleducato. Assolutamente è un imbecille, un maleducato, dimostra allora, l'arroganza. È un coglione, è una palla lui. Sì, dimostra l'arroganza del potere, questo volevo dire, magari mi sono espresso male. Ok. Però a quanto pare a noi questa cosa non ci interessa, cioè parliamo delle conseguenze. Se non ti interessa, ma non lo so, le conseguenze politiche, fatto, chi ma... se ne frega, vedremo le conseguenze politiche, scusami, cioè vedremo le conseguenze politiche di questa cosa, le vedremo. Adesso colpisce il fatto che un signore cattolico del nuovo centrodestra pronunci di fronte ad una suora una frase di questo tipo. Ciao. Monellacci, Monellacci. La zanzara. Ma dai, fatti bravi. Allora ragazzi, qui c'è il presidente di una squadra di calcio importante come la Lazio, si chiamano Tito, che è indagato per estorsione. Trema ancora il calcio italiano, è un'azienda molto importante in Italia. L'artefice di tutto questo ha un nome e un cognome, è stato già nostro ospite ed è colui che ha registrato quella famosa frase, quella famosa telefonata con Lotito, che poi è stata consegnata ai magistrati. Si chiama Pino Iodice, direttore generale dell'Ischia Calcio. Ciao Pino, come stai? Buonasera, bene, bene, buonasera. Allora, ecco, non sta registrando, vero? No, anche no, se registra. Ma anche l'altra volta quando mi chiamaste non registrai. Ma scusa, ma anche se registra adesso, qual è il problema? Scusa. Sì, no, è vero, effettivamente. Cioè, se registra adesso non ha nessun senso, sì, no? Esatto, cioè, allora, io la cosa che voglio chiedere subito a Iodice è questa. Iodice è un nome, come dire, fittizio? No, perché fittizio? Pino no, Iodice. È uno pseudonimo, detto Iodice. Ma perché no. detto Iodice? No, scusa. Pensavo. Non... Iodice è un direttore generale dell'Ischia Calcio. Allora, voglio... Sì, no, questo lo so, ma ecco. Fosse un nome di battaglia. No, perché nome di battaglia? Ti è un nome di battaglia? No. Iodice, va bene, benissimo. Andiamo. Allora, voglio chiedere, qual è la frase, secondo Iodice, che ha spinto i magistrati sì. a incriminare Lotito per estorsione? Cioè, che cosa avrebbe fatto, secondo te, Lotito? Ah, è quello che in effetti ebbi modo di poter dire qualche mese fa. Ci sono state delle vessazioni da parte di questo soggetto a taluni dirigenti e presidenti di Lega Pro. Vessazioni, affinché, vessazioni tu le chiami. Vessazioni, pressioni, minacce sì. a taluni presidenti di e Lega da qui Pro. E da qui l'accusa di estorsione, certo. per fare cosa? Tentata estorsione. Tentata estorsione. Eh sì, per fare sì che rimanesse in piedi l'attuale governance della Lega sì. Pro. Sì. Perché, come tutti sapete, la Lega Pro esprime un 17% nelle elezioni del presidente federale sì. e chiaramente rimanendo Macalli, che è sì. anche vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, al comando della Lega Pro sì. l'anno prossimo. A che tipo di sì, certo, Lotito si assicurava, come dire, il controllo. Certo. Allora io voglio capire che tipo di pressioni avrebbe fatto Lotito. Ma ha continuato a chiamare sulle utenze telefoniche insistentemente a tutte le ore al nostro amministratore affinché se gli diceva che se non avesse consentito a quelle che erano le sue indicazioni la società non avrebbe riscosso le contribuzioni federali, siccome l'Ischia è una piccola società che vive di sì. contribuzioni generali, federali. Giustamente, cioè lui diceva se non vi adeguate a quello che voglio io, se non vi adeguate a quello che io dico, non pigliate certo, più i soldi. Questa certo, è la sostanza. Certo. Lì che vive di contributi federali. Chiaramente l'amministratore si è trovato in difficoltà rispetto a queste situazioni e messo sotto pressione più volte da questo soggetto. Lei come lo è definisce? Contento adesso? Sei contento, Pino? Sei contento che l'hanno messo sotto torchio? Ma voglio dire, cioè sei contento che sia stato indagato tutto questo? Cioè, la cosa che mi fa piacere è che quello che ho detto o quello che è venuto fuori 3 mesi fa non era fondato su niente, perché qualcuno ha detto che volessi farmi pubblicità, che ho voluto trovare un momento di mediaticità, assolutamente. Sì. Cioè non, tu non dici, io ho registrato le cose, però adesso il fatto che i magistrati aprono un'inchiesta, indagano Lotito per tentata estorsione, eccetera, eccetera, è la dimostrazione del fatto che ho fatto bene certo, a registrare. Non credo che si indaghi un soggetto per tentata estorsione se non c'è niente. Non credo che si va in FIGC a perquisire tutti gli uffici della federazione. Ne abbiamo viste di cotte di crude, però c'è anche indagini partite e poi finite nel nulla, certo, per carità. Vero anche questo. Però io ti dico una cosa, voglio chiederti una cosa, Pino. Allora, c'è un po' di soddisfazione in questa roba qua? Cioè, tu sei stato accusato anche di avere storto delle dichiarazioni, di avere registrato un personaggio anche importante a sua insaputa, la questione del Carpi, del Frosinone, è successo un casino che è durato mesi. Allora, ma non mi interessa questo, nel senso che a me non mi interessa la forma. La forma può essere anche discutibile, poco mi interessa. Però tu dici io rifarei tutto. Io vado ai contenuti. Cioè, rifaresti tutto o no? Senza nessun problema, di quello che ho fatto. Registreresti un'altra volta lo Tito? Sicuramente sì. Perché ti stavi solo difendendo, o sbaglio? Questa è la tua tesi. Sì, sicuramente sì, ve l'ho detto all'epoca e lo ribadisco adesso. L'unico strumento che avevo per limitare il campo a questo soggetto bagnato del delirio di onnipotenza era la registrazione telefonica. Senti Pino, tu vorresti lo Tito fuori dal calcio? Fuori dal mondo del calcio? Allora, vorrei chiarire che non è una sfida mia personale contro Claudio Lotito, non ci tengo assolutamente. Però soggetti come Claudio Lotito non devono fare a stare nel mondo del calcio, che fanno della logica della prepotenza, della minaccia e delle pressioni il proprio assumono. Dunque senza Lotito il calcio italiano starebbe meglio, tu dici? Ma credo sicuramente sì. Senti, ma pensa che botta per Cruciani che è laziale. Ma a me che me ne frega, sono laziale, ma mica la Lazio si Ma sono gli stessi laziali. I presidenti passano, i presidenti passano, le squadre restano. No, i presidenti passano, le squadre restano, è sempre questa. Sicuramente. Non me ne frega niente a me di chi è il presidente, di chi non è il presidente, non mi ha fregato nulla, figuriamoci se mi frega in questo caso. Però voglio dire una cosa a Pino Iodice, che è questa: tu pensi dunque che Lotito sia uno dei mali del calcio italiano? Ma non lo dico io, no, dillo tu. Sebbene io lo penso, sebbene io lo penso, ma voglio dire, cioè Tavecchio Tavecchio ha dimostrato di essere un suo adepto, e quindi c'è una specie, chi è il burattinaio e chi è il burattino? Ma Tavecchio per come si è comportato nel passato, nei mesi scorsi, e per quanto è accaduto negli ultimi tempi, ha dimostrato di essere un personaggio quantomeno succube di Claudio Lotito. Succube di Lotito, cioè il burattinaio è Lotito e Tavecchio è una sorta di cagnolino. Ma io direi un personaggio che sicuramente, purtroppo, tante volte fa delle cose sol perché lo dice Claudio Lotito. È un presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, non può assolutamente essere oggetto di un soggetto che è consigliere federale, che sicuramente fa il primo tempo in TGC. Grazie Pino, a presto, ciao. Ragazzi, abbiamo qualche minuto, 800 24 00 24. Pino Iodice era uno dei protagonisti di questa vicenda che ha portato all'indagine su Claudio Lotito. Parole molto dure, però ritorniamo agli ascoltatori e ad altre cose dopo la pubblicità. Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Allora andiamo a Cosenza, Paolo, vai. Senti, buonasera innanzitutto. Buonasera. Io penso che tu soffri un po' di fascismo. Di fascismo addirittura io? Sì, penso proprio questo, io ti seguo sempre. Sì, dimmi. Però sei sempre a favore dei poteri forti. Dei poteri forti, sei sicuro? Sempre i poteri forti sono cristallini di molte virtù. Io sono a favore di Fedez, perché io penso che sia l'ultimo baluardo che ci sia di giustizia. Quante persone Se tu pensi che Fedez sia l'ultimo baluardo della giustizia, io faccio tanti auguri alla giustizia, ma mica perché ho qualcosa contro Fedez, perché guarda, definirlo l'ultimo baluardo a favore della giustizia, penso che tu stia scherzando, però. Ma perché è un bravissimo cantante, un rapper, presunto tale, conduttore di un programma di successo, diventato personaggio personaggio in questo periodo storico, va benissimo. Ogni tanto trovo interessanti le cose che dice, come quelle di tante altri. Io non considero Fedez né un grandissimo cantante, né tantomeno un cantante, perché i cantanti in Italia sono altri. Ma il cantante intendo che fa quel lavoro lì, dai, su, non sto dando una definizione nobile del cantante. Secondo te, quante persone ci stanno in Italia che vorrebbero dire le cose che dice Fedez, però hanno paura di dire? Cioè, le cose contro i poteri, contro la polizia, che picchia, eccetera, eccetera. Non lo so, ma ci sono le persone che parlano chiaro e che non si fanno mettere i piedi in testa. E quindi ma qual è il problema? Non ho capito. Ti volevo dire. Allora, noi abbiamo criticato Fedez una volta. Ma chi lo considera un terrorista? Io non lo considero affatto un terrorista. Quando ha scritto quelle cose sulle manifestazioni, ho detto che ha scritto delle puttanate quando diceva che dipingere, no, passare lo spray sul vetro di una banca è una cosa che non è. Quello è un atto irrazionale. Ma non lo so se è irrazionale. Ha detto una cosa che per me è una puttanata. Cioè, chi sporca la vetrina con lo spray, con la vernice, è un coglione e deve pagare. Non c'è nessun atto rivoluzionario in questa roba qui. Anche se la vetrina è di una banca oppure è di una casa privata, è la stessa cosa. Comunque, e noi l'abbiamo criticato per queste cose qui. Comunque, tutto il resto che dice è opinabile. Qualcuno è d'accordo? Vabbè. Comunque, prima di chiudere, ti volevo dire che ti saluta Raffaele, che è pieno di zanzare. Raffaele che è pieno di zanzare. Vabbè, Domenico dalla provincia di Torino, vai, Domenico. Domenico, buonasera Cruciani. Buonasera, dimmi Domenico, dimmi. Caro, niente. Riflettivo su prima, quando si parlava di quel tale politico di centrodestra che avrebbe affermato, come ho sentito adesso alla Zanzara, non sapevo, ecco. E comunque anche Pareto ha affermato che avrebbe fatto volentieri la pipì a qualcuno. Quindi non ho capito. No, tu una volta avresti detto che pisceresti su qualcuno, no? Non ho capito l'espressione del potere. Non ho capito l'espressione del potere, però ho capito il gesto, cioè, perché è una cosa che lui ancora non la conosce nemmeno, non sa chi è. Potrebbe essere chiunque, ecco, ognuno di noi potrebbe essere. Ho capito, ma lei capisce che questo tizio qua, che è del nuovo centrodestra, alleato del Partito Democratico, bisogna adesso ricordarlo, il quale nuovo centrodestra esprime un senatore che si chiama Azzollini, il quale è coinvolto in un'inchiesta che è tutta da verificare, ovviamente, su una casa di cura che poi sarebbe fallita, gestita da alcune suore. Oggi ci sono stati degli arresti, due suore arrestate, c'è una richiesta d'arresto per lo stesso Azzollini, il quale Azzollini, da cattolico, secondo quello che risulta dagli atti dell'inchiesta, avrebbe detto a una di queste suore: qui adesso comando io, oppure vi piscio in bocca, non in testa. In testa lo disse Sgarbi a me durante Radio Belva. Questo è il punto fondamentale. Allora, se uno se ne vuole fottere di quello che c'è nelle carte dell'inchiesta, va bene, uno se ne può anche fottere. Però questa frase colpisce, tant'è che l'abbiamo sentito e ha detto che quella frase non l'ha mai pronunciata. Qual è il problema? Benissimo. No, è che volevo ridere soltanto per sdrammatizzare, pensando che ho sentito Pareto che qualcuno che lui non condivideva, e estremizzando. Io non ho mai usato nessuna espressione di questo tipo. Sì, hai detto vorrei fisciare da quel fascista, non so da quel. Mai a nessuno. Ho detto semmai una volta quando c'erano. Le assicuro, perché ricordo quel che ho detto. Ho detto io che avrei portato il cane. No, ma se vuoi glielo dico. Non lo dici da cattivo, perché cioè, mi fai ridere qua, perché è una no, cosa. Ragazzi, era la vicenda di Erich Priebke, me lo ricordo perfettamente. Sì, che tu pisceresti sulla tomba di Priebke. Cosa io paresti? Ho detto che non io non faccio queste cose. Ho detto che avrei portato volentieri il cane. No, ho detto un'altra cosa. Il cane a pisciare sulla tomba di Priebke. Esattamente. Vabbè, non è una cosa bellissima pisciare sulla tomba di qualcuno. Mi è stato chiesto solo per precisare. Ma ho capito, ma andresti a pisciare sopra la tomba di Priebke? Non io, ancora una volta ti ho detto. Porteresti il cane a pisciare sulla tomba di Priebke? Porterei il cane, casualmente passa di là e piscia sulla tomba di un signore che è morto. Siccome il cagnolino non ha il controllo che abbiamo noi, se lo fa, vabbè. Io non lo rimprovero. Vabbè. Oh, c'è un altro signore che si chiama Castiglione, che è un sottosegretario del nuovo centrodestra, il quale è indagato per la vicenda del CARA di Mineo, cioè il centro raccolta immigrati di Mineo, che sarebbe stato il cui appalto sarebbe andato in mano a una ditta vicina a Castiglione, anzi Castiglione era tutto concordato, insomma, da quello che dice anche Buzzi, signor Buzzi. Sentiamo un po' Castiglione oggi, che cosa dice. Signor Castiglione, anche qui vale il discorso che abbiamo fatto con Azzolini. Cioè, se questi qua fossero stati al governo non con Renzi ma con Berlusconi, cioè se l'accordo fosse stato come è stato nel passato tra un partito piccolo e Berlusconi, lo avrebbero fatto nero, avrebbero chiesto le dimissioni, il Partito Democratico avrebbe chiesto dimissioni immediate di questi signori qua. Invece adesso sono diventati tutti garantisti. Io non sono nella vicenda del 2014, non ci sono, non ho avuto nessun ruolo. Per la notizia, per la cronaca, stamattina ho provveduto a querelare Buzzi, che io non conosco, e che ieri aveva detto che se parla lui del cade cara di Mineo cade il governo. Lei si è fatto allora, un'idea del perché abbia detto io, una frase del genere? Ma io non sono, lo conosco. Allora, Andrea da Cesena, vai. Ah, ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, ciao David. Dimmi. Io mi sono ricreduto su David Parenzo e lo considero una persona molto in gamba. Molte volte l'ho aggredito su Twitter, soprattutto quando va alle trasmissioni, tipo Quinta Colonna e quant'altro. E mi devo scusare perché mi sono ricreduto, perché un ragazzo è una persona molto intelligente, ha avuto la capacità anche di cambiare atteggiamento su molte cose. E secondo me è un ottimo opportunista, ma lo dico con senso, in senso positivo. Tant'è vero che ha cambiato idea, per esempio, su Mediaset, è molto più aziendalista ultimamente, quindi secondo me è una ma cosa che positiva. Ma in che senso ha cambiato idea? Non ho capito. Vabbè, fallo diciamo, che effettivamente nel 2011 quando Telese scriveva contro le donne rovinate dal dragone, adesso sinceramente è una posizione molto più moderata. Ma scusami, tu ricorderai, perché sei un ascoltatore attento mi pare, ma spero Cruciani da 4 anni a questa parte, che io ho sempre distinto il ruolo politico dal ruolo industriale. Cioè ho sempre detto, e ti puoi tirar fuori le registrate fino a smentita, e ho detto che Berlusconi, sta parlando di un'altra cosa. No, non ho mai cambiato opinione su, ho sempre detto che Berlusconi è stato un pessimo politico, ma un ottimo imprenditore. David, per carità di Dio, ho sempre questa roba qui, non è mai cambiata di un filo. E poi c'è una cosa, secondo me, che però un'altra cosa, finisco, non era questo l'intervento, l'anima dell'intervento era più sostanziale, più importante. E mi sono sempre domandato come mai David difendesse a spada tratta i Rom. E questa è una cosa. E secondo me è perché si sifona la Pavlovic. Perché si siflona la Pavlovic? Cioè perché perché si fa la Pavlovic? Secondo me Pavlovic è una bellissima ragazza, ma è una cosa positiva. Cioè, stai dicendo che sei dalla parte di Roma perché ti trombi la Pavlovic? Pensavo, detto con tutto il rispetto. Pensavo che la persona fosse mediamente intelligente. Però scusa idiota, però. Non ho mica detto Rosy Bindi, ho detto la Pavlovic, una bellissima adesso, donna, per carità di Dio. Al di là della anche perché battuta. Secondo me, signor Cruciani, Parenzo sembra così, ha quell'atteggiamento tutto, ma è un chiavatore, e glielo dico perché secondo me è il classico chiavatore laterale, cioè non che so vuol se dire questo laterale? Sia un argomento di grande interesse pubblico. Secondo me Parenzo, David, perché c'è anche Beniamino che abbiamo avuto il piacere di conoscere, meraviglioso. È il fratello, sì. Sì, il fratello. David, essendo non dove l'avete conosciuto mio fratello, scusi? No, l'abbiamo conosciuto alla radio, dai, su, non fare il cretino, dai. Allora? Mentre lei ha una fisicità naturalmente più prorompente, quindi è un chiamatore frontale, si vede lontano un miglio, David ha più quel modo di fare amicale, perché ha un physique du rôle un pochettino meno marcato. Beh, guarda, pure il fratello mi sembra... No, il fratello non c'entra niente. David, io non so... No, ma voglio dire, anche il fratello non mi pare che abbia questa fisicità prorompente, è mingherlino come no, me. Io parlo, di David, e secondo me è il classico amicone che poi, dai e dai, amico, bang, al momento giusto la bastona. Le analisi psicologiche di Andrea da Cesena sulla famiglia Parenzo, ma cosa che ti sconvolge, David? Cioè, quando c'è trasparenza, se vogliamo trasparenza degli altri, dobbiamo essere trasparenti anche no, con ma, noi. Fermi, interessa tutti, è inutile che fai adesso lì perché sei a Confindustria, non so dove, non interessa la gente, ma non è vero, non dire cazzate, via, pubblicità. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. La Zanzara. know you've been up running. When you've done all your running, run to me. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai senza pena, per la rabbia, per quest'astio. My sweet Louise, my sweet Louise, sweet, sweet, sweet Louise, my sweet Louise, my sweet Louise, my sweet Louise. Allora andiamo a Verona, Bruno, vai. Buonasera. Dimmi, dimmi. Allora, io volevo un po' parlare di immigrati. Io ce l'ho un po' con la sinistra buonista, sì, che ad oltranza continua sempre a difendere gli immigrati. E non lo capisco sinceramente, perché questa è una nazione di italiani. Allora, ve lo dice uno che è in sedia a rotelle, per disgrazia ricevuta. E allora? Lo Stato italiano a noi disabili non solo non ci dà quello che le leggi che lo Stato ha fatto, ma addirittura ci vessa perché neanche risponde, ci toglie da cosa. Lei sta dicendo: io sono disabile, in sedia a rotelle, lo Stato a me dà poco, agli immigrati tanto. No, non parlo a titolo personale, parlo in allora, voglio dire, amico mio. Allora, perché ci hai detto che sei disabile? Ha detto con tutto il rispetto. Allora, se ce l'hai detto, qualche motivo ci deve essere. Altrimenti allora, nel 2010, in ottemperanza una legge che dà. Sì, però adesso non andiamo sulle leggi, eccetera, eccetera. Io voglio capire una cosa: perché ce l'hai con gli immigrati? Ce l'ho con gli immigrati perché ci sono persone come Parenzo che veramente mi angoscia ogni volta che parla. Lui è sempre a favore di tutto. No, ma non è a favore di niente. Ma sta zitto. Io non sono a favore assolutamente di niente. Ascolti un attimo che è solo da imparare qualche volta. Sentiamo. Prima attaccava il buon anno che dovrebbe andare a Mineo. Ma perché non ci va lei a Mineo e si prende un bel... No, aspetti un attimo, stia un po' zitto per favore. Si prende? Perché non si prende un anno sabbatico, così il suo bel stipendio rimane congelato dov'è e va a fare un po' di volontariato a Mineo. O qualunque altro cara che lei desidera, così almeno fa del bene. Perché invita sempre gli altri ad accogliere? Io invito quelli che sono stati condannati per razzismo a andare a lavorare lì. Ma perché non sta zitto un attimino? Ma perché deve sempre perché intervenire? Perché io faccio un altro lavoro, amico mio. Lei parli alla fine, non continui. Lei è sempre la questione, deve sempre continuare a interferire, a interloquire. Interferire. Parla alla radio, dai Bruno. La questione, perché molte persone me lo stanno segnalando, è che per esempio ci sono nelle stazioni ferroviarie italiane, anche di città importanti come Milano, come Roma, degli accampamenti in questi giorni di immigrati che sono indecenti. Io non lo dico per gli immigrati ovviamente se non sanno dove andare, dove minchia vanno, è perché nessuno controlla. Cioè le stazioni italiane dovrebbero essere il fiore all'occhiello quando uno arriva. Dovrebbero essere la dimostrazione che l'Italia funziona, non che diventano l'accampamento per ogni genere. Facciamo un esempio di ma oggi. Dai, no, su, un è una di cosa vergognosa. Così, dai. Tanto per dar fiato no, alla ti bocca. Dico un'altra cosa. In no, Sardegna, ma dico io un'altra cosa, perché sennò non facciamo solo opinione, invece diamo anche una notizia. Sì, poi dimmi, facciamo avanti, l'opinione. Dimmi. No, notizia, in realtà, la dai, notizia, forza, dai. I giornali. La città di Bari oggi ha detto di essere disponibile ad accogliere altri, mi pare 50, adesso il numero esatto te lo posso dire tra poco, migranti. No, va bene un corno, immigrati. Cioè laddove c'è un'amministrazione che, come dire, si è coordinata con il prefetto, col ministro degli interni. Sono disponibili, benissimo, trovassero soluzioni concrete, dai. La stupidaggine è di quei comuni che ad esempio ne arrivano 23 come ieri. Ma se il sindaco non li vuole, sarà libero di dire che non li vuole o no? Ma non è una... Non li vuole, non si può, bisogna accettare qualsiasi destinazione, benissimo. Cioè, se un sindaco che è espressione di una comunità, se un sindaco che è espressione di una comunità dice io qui non li voglio, come ha fatto Buonanno prima, come altro, ma perché questo qua deve essere considerato razzista? È siccome in quel momento è stato eletto da una comunità, come espressione di quella comunità. Non è né Maro, scusami, non sono per informazione, poi dopo ognuno fa il commento che vuole, anche questo che ha telefonato. Quindi non è buonismo, solo un'informazione, un dato che poi vuol dire il sindaco di Bari li ha accolti, il sindaco di un altro paese dice no, andatevene a quel. Il secondo è che non decide né Maroni, né Zaia, né il nostro amico Totti, nessuno dei tre. No, questo già si sapeva. Ma non si sapeva niente. L'abbiamo già detto negli ultimi giorni 40 volte, lo vuoi ripetere? Ripetilo, avanti. Ripeti le stesse cose, siccome non hai nulla da dire, ripeti le stesse cose da tre giorni. Traffico. Io non difendo gli immigrati, dico semplicemente che queste tre persone vi stanno raccontando una balla. Traffico. Traffico veloquilare. La zanzara. Attento al GDT, sai? Beh, uno dei miei miti più grandi qui al telefono. E da quello che leggo sui giornali, sembrerebbe poi i giornali, come al solito, no? Amplificano tutto, siccome non è preoccupato manco per niente. Per la vicenda, insomma, di Agon Channel, no? Cioè la vicenda albanese di questa richiesta d'arresto nei confronti del signor Becchetti. Lui ad Agon Channel ci ha lavorato, è stato uno dei fondatori, non credo adesso abbia rapporti in corso. Pupo, ciao, ciao. Eccomi, Pupo. Ciao, come... ciao Giuseppe, ciao. Come ciao, stai, caro, come Pupo. Stai? Allora, ciao Davide, ciao. Dove ti trovi innanzitutto? In Italia? Non sei in Albania, no? No, sono in mezzo a un bosco in Toscana, praticamente, perché sto andando a cena da un mio amico che ha una casa in mezzo a un bosco. Ora mi sono fermato perché ho paura che cada la linea, ma io già d'altronde questa cena l'avevo programmata e quindi... Beato te, sono in mezzo a un bosco in Toscana, caro Pupo, dove esattamente? In una collina che domina Arezzo. È meraviglioso. Che domina? Arezzo, la città Arezzo, di Arezzo. Sono a Venezia, caro Pupo. Vabbè, ma chi se ne frega che tu sei a Venezia? Ma Venezia, lo sai, allora Venezia è la mia praticamente seconda città. Vabbè, perché giocavi al casino come un matto. A 16 anni scappai di casa e venni a Mestre, fu recuperato dalla polizia ferroviaria, mio padre venne con la 128 a prendermi, era il 1972, penso. Ma 72. Perché non hanno ancora scritto la tua biografia? Perché non hai scritto la tua biografia? Hai scritto un libro sulla tua storia? Ne ho scritte due. Una con Raieri e una, ma tu sei interessato ad altre letture, poi No, non pensavo che fosse uscito qualcosa sulla tua vita. Raieri Mondadori. Ma sei così giovane, sei giovane, che cazzo è già uscito? Giovane. È già uscita una cosa sulla tua vita. Vabbè, io voglio capire una cosa, ma Becchetti secondo te è un truffatore oppure no? Ha pagato intanto o no? Allora guarda, Becchetti è una persona molto simpatica e per me è una persona per bene, mi ha sempre pagato. Adesso io ho detto che chiaramente c'ho l'ultima tranche da avere, ma sono tranquillissimo e sicuro che come sempre ha fatto Agonciane e il dottor Becchetti onorerà anche questa. Cioè secondo te al di là delle richieste gli hanno sequestrato tutto? Aspetta, non è vero che gli hanno sequestrato tutto, al di là delle richieste di arresto, al di là delle richieste di arresto che ci sono tutte da verificare, lui dice che è un complotto del governo albanese nei suoi confronti. Tutto ci sta secondo te che gli albanesi... Tutto ci sta, nella vita ci sta tutto, ormai siamo abituati a tutto. Cioè tu, siccome sei stato là un po', no? Per carità, poi non è che ti occupi di cose politiche, ma ci può stare che il governo albanese se lo voglia inchiappettare o no? Ma io credo che sia una remota possibilità, ma visto... Non si può escludere, non si può escludere niente. Secondo me non si può escludere nulla. Io personalmente di Becchetti non posso dire niente, e soprattutto nemmeno di Agonciane, neanche degli albanesi che hanno collaborato con me, che tu pensa che ho chiuso la mia produzione con una cena, 80 ragazzi e ragazze della redazione, tecnici, sì. Li ho salutati a Tirano un mese e mezzo fa offrendo loro una cena, abbiamo anche pianto per la produzione, ci siamo voluti molto bene davvero. Per cui non puoi dire niente di male di Becchetti, questa è la... non posso... assolutamente. E quanto ti deve dare ancora? mi deve dare l'ultimo saldo, che è una cifra relativamente importante, ma che non cambia la mia vita, ecco. Quant'è? Ho capito, quant'è? 10.000? No, ma non te lo dico. Ma che 10.000? Vabbè, dimmelo, scusa, dai, ma su. Ma lasci perdere. 30.000, che ne so, 30.000. Sono brutte, Giuseppe. Sono bellissime le cifre, perché il mondo gira... Danno, ma detto in radio, sono brutte, perché la gente si fa il loro disposizione. Io ho fatto un buon contratto che mi è stato onorato, che l'ultima tranche deve essere ancora stata pagata, la pagherà sicuramente, e quindi, ma è una cifra chiaramente non bassa, ma neanche al normale per noi che facciamo questo mestiere, ecco. Sì, no, ma sai perché sono importanti ogni tanto, dice, per carità, poi adesso te l'ho chiesto, non te lo chiedo più, però la questione è che spesso le cose ruotano sempre intorno ai soldi, allora no, se non si chiarisco che non si, lo so, però è così, il mondo va avanti con queste due cose, sai, con le donne e con i soldi, c'è poco, dillo a me, io ho sempre fatto così, per te pure sono stati anche con i valori, ogni tanto con le, sì, idee, però, con i valori, se vuoi, certo, no, guarda, però i valori, ha ragione Davide. Comunque, io ho sempre camminato sul filo nella mia vita, però te lo posso dire con grande serenità, non ho mai sgarrato su certi valori. Alcuni li ho infranti, li ho spappolati, ma altri non ho, proprio senza transigere mai. Sono molto, molto duro. Senti, però... Enzo, ti voglio dire una cosa. Tempo fa, a proposito di valori, no, è venuto qui alla Zanzara a parlare della sua drammatica esperienza, Baldini, Marco Baldini. Marco ha detto addirittura che in questo momento sta passando un momento terribile, ha pensato addirittura al suicidio, perché non riesce a togliersi questa roba si può arrivare. Tu non ci hai mai pensato nella tua vita, no? Quando stavi, sì, quando... ci ho pensato una volta, sì, cioè, l'ho anche scritto nella mia prima biografia, che si chiamava Un enigma che è cupo. Sì. Io una notte sul viadotto che divide l'Emilia Romagna dalla Toscana, sai, quelle viadotto della Torta del Sole, mi sono fermato, avevo la mia Jaguar bellissima, la Jaguar di allora, perché sai, ero veramente un megalomane del cacchio, e siccome ero in difficoltà economiche terribili per il gioco, per il gioco e per scelte anche imprenditoriali sbagliate, non vedevo una via d'uscita, ragazzi, è andata così, sono sceso dalla Jaguar con l'idea proprio di farla finita, un camion, era tra il sabato e la domenica, quindi i camion neanche viaggiavano, oppure viaggiano solo quelli che hanno merci deperibili, praticamente io sono stato, la mia Jaguar e la mia persona è stata praticamente conquassata da un movimento d'aria provocato da questo camion che è passato, che mi ha risvegliato e mi ha salvato. Cioè, se non ci fosse stato questo movimento d'aria che ha ceduto... Hai presente in quel punto dove l'Emilia Romagna diventa Toscana e viceversa? Sì, cioè, ma questo movimento d'aria cosa ha provocato? Ha provocato uno scossone probabilmente nel mio cervello, mi ha risvegliato. Per cui tu, Marco, quando racconta queste cose lo puoi capire, che per il gioco si può arrivare, per i debiti si può arrivare. Capisco. No, ma si può arrivare per la disperazione. E siccome tu hai detto una cosa giusta, i soldi sono molto importanti, chi dice nella vita che il denaro è... No, infatti è ipocrita. È ipocrita. Il denaro, se lo usi per salvare e salvaguardare chi fa poi il nostro mestiere, se lo sai, la nostra dignità. Io da quando ho qualche soldo in più mi posso permettere di mandare a cagare un sacco di gente, ma non perché io... Avvicina un po' la bocca al microfono, sì, del telefono. No, scusami. Semplicemente mi posso da quando ti sei rimesso in carreggiata, diciamo. Esatto, che sono una cosa importante. E io so anche grazie a chi, ma non lo possiamo dire. Ti sei rimesso in carreggiata anche grazie a grazie anche a Umberto. Grazie a tante persone intorno a te. Ti sei rimesso in carreggiata e da quel momento. Ho avuto tanta gente che mi ha voluto bene, è vero. Senti una cosa, io voglio, con Agon è un'esperienza chiusa per te, al di là di quello che sta succedendo. Ma guarda, allora adesso contrattualmente sì, un'esperienza chiusa. Io ora. Cioè, torneresti in Albania o no? Ma guarda, in Albania in questo momento a registrare, ma non perché gli albanesi che mi sono trovato bene, perché ho dovuto fare salti mortali, voli pindarici per girare il mondo, perché tutte le settimane, io dal 1° dicembre, per rispettare il mio impegno, sono andato per 6 mesi, 5 mesi e mezzo in Albania tutte le settimane. Ma che progetti hai adesso? La Rai? Che ne so, vuoi tornare? Adesso faccio 2 prime serate... il Rai 1 di Napoli prima e dopo, che andrà in onda l'11 luglio, che faccio tutti gli anni, poi la finale di Castrocaro, che andrà in onda alla fine di agosto. Vabbè, magari, non c'è torni qua, magari ti invito a qualche, dai, vieni qua, no, magari adesso ci fermiamo un attimo, poi ti presento una persona, fermo lì, resisti ancora un po', c'è la pubblicità, poi una persona che è la, come dire, che conosci e che chiamiamo, perché anche lui è uno dei reduci dell'Albania. Ehi, voi due malvissuti, state al vostro posto. La Zanzara. Allora, siamo qui, la Zanzara, 20:36 800 24 00 24 per chiamarci. Rush finale con Pupo in collegamento dai boschi della Toscana intorno ad Arezzo. Ci ha raggiunto una persona che fra poco ti presento, Pupo, però voglio chiederti alcune cose. La prima è questa, ti faccio ascoltare una persona cosa ha detto di te l'altro giorno, e tanto già lo immagini, io lo sai che sono tremendo. Aspetta, aspetta. Lei che Ambretti non direbbe mai le cose che ha detto Pupo. No, cosa ha detto? Che era fidanzata con lei? No, ma no, a parte quello, insomma, vabbè, lasciamo stare. Ma ha detto anche delle cose poco carine, insomma. Ah, ecco, lei l'ha denunciato a Pupo, eh? L'ho denunciato, insomma, ho pensato che non avesse detto delle cose piacevoli. Ah, io pensavo che si fosse fermato solo, ha avuto un flirt con la Durst. No, ma quella è... Quella è ci una... può stare. Ma non è vero, non è vero, però vabbè, insomma, non è una cosa così scandalosa. Ah, il resto. Quanti dicono che hanno avuto una storia con me, non è vero. E quanti... Allora, non è che sia un problema di, come dire, di, no, che riguarda di stato che riguarda la love story tra Pupo e Barbara D'Urso, no, però sta dicendo che un sacco di gente millanta di aver avuto storie con me. La supposta love story. Ma allora è vero o non è vero? Non ho capito. Ma guarda, allora lei ha omesso di dire che la causa è finita dopo un po' di anni e il giudice, la giudice, una donna, ha dato ragione a me, ma questo non conta nulla. Cioè, ma l'avevamo già detto questo una volta, cioè, l'avevamo già detto sì, è vero, io, sì. Io guarda, sono davvero molto affezionato a Barbara, ma sul serio perché noi c'è stato un flirt proprio adolescenziale, per lei scrisse questa canzone, ma lei si è offesa più che altro perché io feci un esempio, una delle mie battute, lo riconosco, ogni tanto c'ho delle battute un po' infelici probabilmente. Beh, quindi, quello anche siccome... Cruciani, non ti preoccupare. No, siccome ti ricordi, c'era la mia canzone, se lo ricordi, sottolineava una pubblicità dell'HD di Sky, sì, e come vedevi, no. I giocatori un po' ingrassati e poi li vedevi invece in situazioni fisiche più, sì, normali. Sì, ma l'abbiamo già detto, sì, lei si è incazzata per questa cosa qua. Sì. Per quello lì, perché dici che sarà mamma. Beh, ma al di là di questo, tu quando dici rapporto flirt all'adolescenziale, che vuoi dire? Non ho capito. Che voglio dire? No, voglio dire che... Cioè, è stato consumato sto flirt o no? Consumato! Che ne so, flirt adolescenziale, magari vi siete dati solo un bacio, amico mio. Adolescenziale, insomma, io avevo già, un uomo di successo, avevo 20, insomma, nel mio... Ah, vabbè, insomma, avete avuto un rapporto, una storia, è una cosa normale. No, ma noi abbiamo avuto questo flirt può dire tante cose, adesso non mi pare avere discussioni con Barbara di nuovo, lasciala fare, capito? No, ma siccome ha detto che tante persone, si inventano le cose, sembra che ti ha detto, tu ti sei inventato di avere un flirt con lei, questo bisogna chiarirlo, amico mio. No, io non mi sono inventato nulla, e il giudice ha dato ragione a me. No, ma lascia perdere il giudice, dice che lei che ti sei inventata il fatto di aver avuto un flirt con lei, cioè che non l'hai mai avuto. Non me lo sono inventato, c'è stato un flirt da ragazzi, da giovani, eravamo molto giovani, dai, siamo stati a fare, mi ricordo, andiamo a fare una serata insieme, un concerto mio chiaramente, era presente, sì, a Civitella Roveto, vicino ad Avezzano, se mi ricordo proprio tutto. E lei quella sera era con me ad Avezzano, guardò il mio concerto, poi io feci i miei autografi, all'epoca ero proprio... E avete passato la notte insieme? Ma no, ma non mi ricordo. Ma che siete? Antonio Caprarica ci ha raggiunto, Antonio! No, Antonio, buonasera, grande! Buonasera. Ciao Antonio! Ma non ciao, manca nessuno, come stai? Ton ver de femme, ma non si dice, no? Pupo, evviva! No, ma cosa ho detto? Io parlo di flirt, lo so che... Ma lui non c'entra niente, stavolta non c'entra niente, è stata Barbara D'Urso che ha detto da Chiambretti di non avere mai avuto una flirt con Pupo e che lui si è inventato tutto e che c'è tanta gente che si inventa di aver avuto una storia. Ma io trovo un Pupo di una simpatia, di una onestà straordinaria, quindi francamente sono molto con Pupo. Senti, io voglio capire una cosa. Non manca nessuno, manca solo Becchetti a sto punto. No, manca solo Becchetti, il quale non è lontano da casa, cioè lontano non lo so, credo che non abiti lontanissimo da Antonio, vero Antonio? No, non lontanissimo, ma non abbiamo mai preso un caffè assieme. Mai, ma vai lì, scusa, domani facciamo una grande diretta della Zanzara, il grande Antonio Caprarica, storico corrispondente da Londra, intervista Becchetti, bellissimo, sotto casa. È una cosa meravigliosa. Immagino che mi mettiate a disposizione gli stessi mezzi tecnici di cui disponevo da Gonciani. No, anche meno, credo. Guarda, conoscendo Cruciani, un telefono con la ricaricabile con 2 euro sopra. No, ma poi tu, amici, ma poi Antonio, dimmi, Pupo. Cruciani è molto irascibile, non si devono sentire interferenze, cose, robe, perché lui si incavola subito quando sente uno con l'altoparlante oppure che telefona col telefonino che è collegato con la radio. Vai subito nei pazzi. Vado ai matti. Io voglio capire una cosa, ma Antonio, ma tu anche tu ancora devi prendere soldi come Pupo, che però dice che li prenderà? Io me ne sono andato e basta, insomma, non ho chiesto soldi, non ho chiesto niente. È il signor Becchetti che vuole molti soldi da me. Vuole molti soldi da te? Cioè, moltissimi, penso che dobbiate fare delle sottoscrizioni, diciamo. Cioè, quanti? Non ho capito, quanti? Mi ha citato, sostiene che le mie dichiarazioni quando sono andato via, che erano semplicemente la spiegazione al pubblico delle ragioni per cui andavo via, e sono le ragioni che si possono leggere benissimo anche stamattina nell'attacco del pezzo del Corriere della Sera, quando il nostro collega Franco racconta che cosa si vede sul canale 33, e quindi ho detto semplicemente quella cosa lì. E non so se adesso chiederà anche 10 milioni a Renato Franco, però a me ha chiesto 10 milioni. Dice 10 milioni. Perché dice che il racconto che tu hai fatto, le mie dichiarazioni hanno danneggiato i destini magnifici e progressivi di Agon Channel. Senti, ma tu non dico che sei contento, perché non è che la richiesta d'arresto per qualcuno ti possa rendere contento, ma te l'aspettavi questa roba qui o no? Ma guarda, onestamente no, perché è veramente demenziale. Adesso, per carità, poi tocca ai giudici. Cioè, cos'è demenziale? Difendi Becchetti da questo punto di vista? Come? Difendi Becchetti da questo punto di vista? No, io sto parlando della causa che lui ha tentato nei miei confronti. Ah, figuriamoci. Sul resto, caro Giuseppe, io non difendo nessuno, sto a sentire che cosa dicono i giudici albanesi. Insomma. Lui dice che c'è un complotto del governo albanese nei suoi confronti, ti risulta? Ma questo lo dice lui, noi siamo passati attraverso molti anni, non devo dire niente di nuovo, insomma, in cui ogni volta che un giudice muoveva una cosa, il politico di turno diceva: oddio, è un complotto. Sì, è vero. Adesso vedo che la teoria complottista ha fatto molti proseliti, tra breve probabilmente anche artisti e giornalisti diranno un complotto contro di me. Già lo dicono, alcuni già lo dicono, però effettivamente quando lui dice io sono vittima innocente del governo albanese, sa un po' di atteggiamento berlusconiano, diciamo la verità, insomma, no, ma non solo di berlusconiano, anche De Luca adesso, per esempio, presidente della Regione Campania, dice che c'è una sorta di assedio nei suoi confronti. No, è l'atteggiamento. L'atteggiamento. Ma sono cose diverse, adesso effettivamente non mischiamo, però l'atteggiamento che dice Giuseppe, secondo me, insomma, quando uno riceve un avviso di garanzia, no, una richiesta d'arresto in questo caso, o peggio ancora un mandato di cattura, la sola cosa che ha da fare per dimostrare che è una persona per bene è andare dal giudice e dire queste sono le ragioni. Dovrebbe consegnarsi in Albania, secondo te? Secondo me sì. In Albania non sono leggeri. Guarda, ascolta, in Inghilterra un signore, un giovane indiano, di nazionalità di passaporto britannico, al quale avevano ammazzato la moglie in Sudafrica. La polizia sudafricana, la più corrotta del mondo, non me ne vogliono gli amici sudafricani, non è un complotto manco questo, lo ha accusato di aver organizzato l'omicidio. Questo povero disgraziato è stato estradato dagli inglesi nelle prigioni sudafricane. Ci è andato, ha accettato le. Però non pare facile l'estradizione dall'Inghilterra all'Albania. Comunque, che insomma, Becchetti, che è un signore che insomma non è l'ultimo arrivato, no? Ha stuoli di avvocati. Pensa che la causa che ha intentato a me ci sono, non so, 10 avvocati. Dieci avvocati addirittura. Ma c'è uno studio, c'è un intero studio che è schierato, insomma. La capisci la rabbia un po' di Antonio? Rabbia, insomma. Ma io non ho nessuna rabbia. L'incazzatura. La capisci o no nei confronti del signor Becchetti? Ma guarda, allora, io credo, io ho avuto un'esperienza probabilmente diversa da quella di Antonio con Francesco, perché con me è stato sempre molto cordiale, corretto e devo dire si è comportato sempre. Beh, eravate su dossier diversi, insomma, come dire. Scusa se interrompo, ma c'è una differenza fondamentale, no? Che è quella che ha spiegato anche Sabrina Ferilli. Sabrina veniva, stava 3 ore a Tirana e partiva. Pupo veniva, non mi credo di non sbagliarmi, no? Ma un po' di più, cioè, forse, un po' di più. Tu venivi una volta ogni 15 giorni e stavi 2 giorni, no? tutte le settimane, no? Io, no, però devo dire che i rapporti miei con Francesco, io lo chiamo Francesco perché comunque per me ha 10 anni meno di me, per me è un, sì, un giovane imprenditore, mi sento di chiamarlo completamente così come l'ho sempre chiamato, sì, stiamo parlando chiaramente di Becchetti. Io l'ho incontrato quando abbiamo fatto il contratto, abbiamo deciso di, sì, collaborare nel suo ufficio in Piazza di Spagna. Poi ci siamo visti alla festa, alla grande festa che ha fatto Agon della presentazione. Vabbè, insomma. Poi ci siamo visti una volta e mezzo in Albania. Poi l'hai visto poco, vabbè. Senti, voglio chiederti una cosa e poi ti lascio. Sì, ho capito. Voglio chiederti una cosa e poi ti lascio. Siccome è il momento in cui i cantautori stanno facendo addirittura delle grandi giravolte, Celentano ha detto, sì, che gli piace Salvini, Vecchioni, sì, ha avuto parole di apprezzamento nei confronti della Meloni. Sì. Tu sei ancora renziano oppure no? No, ma io ho una simpatia per Renzi, perché per la Fiorentina, perché è fiorentino, perché usava Firenze Santa Maria Novella per fare la promozione quando diventò sindaco a Firenze, mi sta molto simpatico Renzi. Dunque, nonostante tutto, resti ancora renziano? No, forse diventerà un ammiratore di Rama, chissà, il primo ministro. No, ma non è che mi piace l'idea di insomma di Renzi di provarci tutto qui, poi e Salvini lavorato. L'astro nascente Salvini non mi sta antipatico assolutamente anche Salvini, perché io, cioè, non credo che siano molto interessanti le mie politiche, anche perché ormai viviamo in un mondo dove l'ideale non esiste quasi più, ognuno dà il voto secondo convenienza, però insomma io credo che anche Salvini abbia delle cose interessanti da prendere in considerazione. Democristianissimo pupo, ciao amico mio, ciao ragazzi, ciao Antonio, a presto, ciao, ti abbraccio, ciao Antonio, ciao. Allora, Rosario da Roma, vai. Buonasera, dimmi. Riguardo alla prostituzione, io penso che sia giustissimo legalizzarla e soprattutto considerare che il piacere erotico, cioè andare con una donna, un uomo, insomma, è una cosa stupenda, cioè Victor Hugo lo faceva, Einstein lo faceva, cioè citare questi grandi. Sì, no, mi piace citarli perché altrimenti... No, ma se a lei piace andare a prostituta non è un problema, non è che serve che copra ci andava Einstein, ci andava Victor Hugo, ci andava Patolini, cioè, non è che non serve, non importa. Le piace benissimo, no? No, ma Rosario vuole dire una cosa, che la prostituzione è una... quello che dice, sai, mi metto le dita nel naso e poi se le metteva a galleria. Rosario dice una cosa, che la prostituzione alla fine è una cosa benedetta, giusto? Ma benedetta da chi? Anche c'è la creatività nell'eros, c'è il tantra, il kamasutra, l'intuizione, cioè c'è un bellissimo film, Old Jazz con Roy Scheider, dove c'è lui, Bob Fosse, che all'ultimo va a baciare quella donna che sta quasi per morire, ed è una cosa stupenda, sublime. No, ma certo, ma ha ragione Rosario, è così. Cioè, no, io dico solo, va bene, andate a prostitute tu, lui. Ma che c'entra? Non ammantate questa cosa dicendo, ma anche Einstein, anche Mitterrand, anche chi se ne frega, cioè, andateci, vi piace, andate. Sta dicendo Rosario che in fondo è una roba che fa parte della storia del mondo, giusto Rosario? Lo sappiamo, va bene, ma dire che ci andava Einstein. A me dispiace che dire. Ferire la sensibilità di Davide, ecco, questo mi dispiace. Ma perché? Che te frega di ferire la sensibilità? Vabbè, che me ne frega di quello che ferire la sensibilità di Davide, va bene, dai, Alberto da Roma, vai, Alberto. Cruciani, mi senti? Dimmi. Ciao, ti volevo mandare un po' a quel paese, posso? Sì, dimmi, vai. Allora, io vorrei che sia tu che Parenzo vi calasse un attimino nella realtà italiana di tutti i giorni. Ti faccio un piccolo esempio, io oggi pomeriggio alle 16 sono andato ad accompagnare mio figlio che partiva per lavoro alla stazione metropolitana di Roma Laurentina. Una vergogna. I bisogni degli emigrati sparsi, non si poteva camminare. Sono salito in metropolitana, piena zeppa di gente che non paga biglietto, gli emigranti, che andavano a Tiburtina, perché ha preso l'Italo mio figlio per andare al lavoro, ritornare al lavoro. Alla stazione Tiburtina ho visto 500 figli di una mignotta, va bene, che vengono qui a bivaccare, che sono qui da una settimana, che non hanno un documento, non possono essere identificati, che cacano, pisciano e fanno tutti i loro sporchi bisogni, ivi compresi atti sessuali, in pubblico. No, Alberto, ancora, lo sai che ti dico? Torniamo a non facciamo rispettare le nostre regole. No, però prova, Alberto, andare un attimino, scusami, in Svizzera, caro Cruciani, no, ma... e caro testa di cazzo di Parenzo. Però devo dirti, saluti alla famiglia a casa, testa, mi raccomando. Testa di cazzo, tu sei un testa di cazzo di sinistra. Mi saluti tutti. Va bene, tuoi a casa, sei un per testa bene di cazzo, Parenzo, che non capisci un ma lei tu non capisci niente. Che sei un pallone gonfiato. No, ma io non ho capito. Sei un pallone gonfiato. Però non sai nemmeno che cosa vuol dire la realtà di immigranti, capito? Io vengo da una famiglia di migranti, capito? Eccola. Testa di cazzo. Però bravi, Alberto, Alberto, il problema vero, il problema vero non è tanto questi qua che pisciano e cagano. Che ci discuti davvero? Il problema, sì, io discuto con tutti, se permetti. Beh, il problema vero, sì, per, no, io discuto con tutti, seleziona, a differenza tua. No, non seleziono nulla, siete che vive il mondo della snobberia. Sì, io se no, snobberia io no, perché io parlo con tutti, ma no, seleziono, se uno è idiota è idiota, no, non è che Alberto parlo con tutti. Dice una cosa, seleziona, dice se la prende con gli immigrati. Il problema non è prendersi con immigrati, il problema è che non c'è l'organizzazione di questa roba qui, perché appunto in un altro paese non accade, quelli dove appunto cazzo devono cagare, poi è evidente che sono disperati, pisciano e cagano dove stanno, se non c'è nessuno che li organizza, se li fanno arrivare a frotte come avviene senza controllo e senza piani, è evidente che succede quello che succede. A domani 18.30, ciao. Ormai è tutto degradato ormai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma guarda che siete veramente strani. Radio 24. La passione si sente.